quando una decina di giorni fa il professor Romano Prodi annunciò, senza che nessuno avesse in precedenza posto il problema, si badi, annunciò di non avere ancora sciolto la riserva relativa a un suo ingresso nel ringo politico, la mia prima reazione fu quella di pensare che scherzasse. E non soltanto perché lo avevo visto la domenica precedente alla trasmissione televisiva del celebre Chiambretti e mi era sembrato dotato di una discreta, sia pur soffusa, verve comica. Ma il fatto è che faceva abbastanza ridere l'idea che dichiarasse che non aveva ancora deciso se darsi o meno alla politica uno che era stato ministro di Andreotti e due volte ex presidente dell'IRI, è uno di quelli che una volta si chiamavano i boiardi di Stato, no? E uno che solo pochi giorni prima era stato un candidato abbastanza autorevole e a quanto pare sotto gli auspici diretti del capo dello Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. E poi, insomma, l'aringo politico in questione era abbastanza affollato da ex democristiani di varia obbedienza perché, francamente, se ne sentisse il bisogno di un altro. Poi il giorno dopo il professore ha sciolto la riserva e tutti, Berlusconi compreso, si sono compiaciuti moltissimo della sua decisione. Quando lunedì successivo Prodi si è fatto intervistare non da Chiambretti ma da Enzo Biagi, e il giorno dopo tanto il Corriere quanto la Repubblica hanno pubblicato il testo completo dell'intervista, in cui si citavano due volte la volontà di Dio e tre volte l'esempio della Germania, e la sera stessa di martedì lui si è presentato in splendida solitudine da Maurizio Costanzo, suscitando l'ira di Funari, le proteste di Liguori e che altro, è stato evidente anche a me che non scherzava affatto. L'evento per ora era solo un evento mediatico, come si dice, ma in una pseudodemocrazia televisiva come la nostra bastava e avanzava. Ma era anche evidente, ahimè, che nonostante dichiarasse di voler costituire anche lui, figuriamoci, un solido polo di centro, l'ex presidente dell'IRI ed ex ministro dell'industria nel quinto governo Andreotti puntava con decisione ad essere il candidato della sinistra. E che la sinistra non aveva proprio nulla in contrario. Non tutti sono stati così imprudenti e così indiscreti da dichiarare in pubblico che aspettavano solo una telefonata per mettersi a disposizione, come mi sembra abbia fatto il buon Veltroni, ma è chiaro che quel professore bolognese lì a tutti gli effetti è già adesso il nostro candidato. Ma scusate, candidato a che cosa? Alla guida del governo? Ma un governo c'è già, e anche se, come si dice, ha una prospettiva temporale limitata, in pratica non ha ancora nemmeno cominciato ad affrontare le quattro priorità per risolvere le quali ha avuto la fiducia del Parlamento. E a fargli avere quella fiducia, ha contribuito energicamente anche la sinistra, no? Che pur non specchiandosi nella posizione e nella linea del governo stesso, si è trovata in gran parte d'accordo sulla necessità di concedere al Paese una pausa di raffreddamento, di dare alle Camere la possibilità di definire quelle regole in assenza delle quali sembrava assolutamente pericoloso andare a nuove elezioni e via dicendo. Diciamocelo francamente, è la necessità di evitare le elezioni immediate, che infatti non le reclamava Berlusconi, scusate, no? La necessità di andare alle elezioni immediate che ci ha fatto ingoiare questo governo di professori e prefetti più in generale, con il suo programma di accanimento fiscale e di taglio all'osso delle spese sociali. E visto che il dottor Dini, a quanto mi è sembrato di capire, ha in programma, oltre che il taglio delle pensioni dell'assistenza, l'aumento dell'IVA, quello della tassa sulla benzina, delle imposte indirette in genere, nonché una cosa definita come la tassa sull'acqua, che non so se a voi, ma a me ha fatto sembrare la buona vecchia tassa sul macinato, le contate fame di carducciana memoria, come un brillante esempio di equità e moderazione fiscale. Insomma, lo sforzo non è stato uno sforzo da poco. Bene, che adesso bisogna andare a votare invece non lo ha detto ancora nessuno, neanche Prodi. Ma non importa. Una volta soltanto i giornalisti più cinici sostenevano che la notizia precede l'evento, anzi lo determina. Oggi l'unico evento che conta è quello giornalistico televisivo. Se uno si presenta da Biagi o da Costanzo o da chi per lui come candidato, vuol dire che anche se nessuno ha indetto le elezioni, la campagna elettorale è cominciata. E in questo caso non si tratta di una campagna elettorale gestita dalle forze politiche in cui si riconoscono e si organizzano i cittadini, come in teoria dovrebbe addicersi a una repubblica parlamentare come la nostra, sia pure afflitta dal sistema maggioritario. Ma questa è una tipica campagna all'americana in cui ad affrontarsi sono due candidati su cui siamo tutti invitati a polarizzarci. senza naturalmente che a nessuno sia stato concesso ad esprimere un parere qualsiasi su quelle candidature, cosa che almeno negli Stati Uniti, più o meno con grazia alle primarie, si può almeno cercare di fare. Da noi i cittadini sono informati soltanto a cose fatte, attraverso un sistema di sondaggi tanto affidabile da far risultare che il 50% degli elettori dichiara di non sapere affatto chi sia. E così, tra un'intervista televisiva e un sondaggio, la sinistra corre il rischio di andare a delle elezioni che non vuole, sotto le bandiere di un leader che non ha scelto, che della sinistra non fa parte, che anzi è un tipico democristiano che ha alle spalle tutta la storia del potere democristiano, e di andarci con l'handicap di chi appoggia un governo antipopolare, se mai ce n'è stato uno, dopo aver mandato all'aria quel poco di unità interna che aveva saputo costruire e aver puntato su uno schieramento alternativo, una delle cui componenti, quella di Bossi, è andata in pezzi e l'altra, quella di Buttiglione, l'ha presa a pernacchie. Certo, abbiamo rimandato a casa sua il cavalier Berlusconi ed è stato mica un successo da niente, ma a proposito di successi non bisogna dimenticare quello che scrive Plutarco. Plutarco nella Vita di Pirro, capitolo 21, a proposito della seconda battaglia di Ascoli nel 279 avanti Cristo, quando Pirro, re dell'Epiro, e i suoi alleati trionfarono sui Romani, ma ci rimisero metà dell'esercito e tutto lo stato maggiore. Dice dunque Plutarco: quando i due eserciti si separarono, si vuole che Pirro dicesse a un tale che si rallegrava con lui: se vinceremo ancora una battaglia così, saremo completamente rovinati. E non vorremmo che quel saggio sovrano parlasse anche per noi. Crrr, buve, buve.